tu cerca l'energia, tu cerca l'energia! Lascia che a guidarti sia energia, è chimico, elettronica, è energia, sostanza viscerale a puro istinto musicale. Se prima non la vedi, la porta è l'energia. Se prima non la vedi, la porta è energia. La porta è energia, tu cerca l'energia. La porta è energia, la porta è energia.